quantarello, non ti dico guasto per l'allaccio di nuovo. Ma perché? Per mettere la linea analogica forse? Ma c'è la linea telefonica, ci avevamo messo, avevamo provato un'altra diciamo società e poi abbiamo messo quella normale. Era quella, adesso non mi ricordo che cosa fosse, se era Tiscali o che cos'era. Abbiamo dovuto cambiare perché ci avevamo sempre interferenze, non sentivano la nostra voce, un po' di problemi di questo genere, là l'abbiamo ricambiata. Ho capito. Oh, Gianni, io ti devo lasciare adesso, che ho da fare due cosette qua in casa prima di cena, prima che ci chiami mia moglie. E anche io vado a mangiare adesso, dai, che è pronto. Saluta il chiarissimo, dai. Ci sentiamo dopo mangiata al limite, ok? Papà, già, si coincide molto volentieri. Ciao per ora e buon proseguimento. Buona carica a tutti quanti. Ciao e se in ascolto, ciao Alessio. Beh, tanto la stavolta ci sentiamo. Niente di niente. No, per quello c'è una ragione. ritorno. Io un po', non so se ti sei meglio di me. Infatti, io diciamo che io tengo la passione più che altro, non ci tengo più a frequentare gente e cose, però la tengo così. Non mi continuo a comportarmi come stavo dicendo a lui. Ti ho sentito. Anch'io continuo a comportarmi come sono sempre comportato, nonostante mi abbiamo fatto a pezzi tutti, quindi lascia perdere, che ce n'è per tutti intanto. Basta metterci una pietra sopra e continuare ad andare avanti, a me. Ora sta a tutti e continuo a ribadirlo. Io non devo dare conto a nessuno, non devo niente a nessuno, vado avanti per la mia strada. Chi non mi può vedere, non mi interessa. Io amici in radio non ne ho, punto e basta. E amici ce li ho fuori dalla radio, come hai detto tu, e non legherò mai più con nessuno in radio. Perché intanto fai del bene e poi ti trovi sempre a prendere nel buco del culo, perciò non me ne affutti nulla. Oh Lu, c'avevo sotto mano la radio uguale a quella che ho io, il 27-25, e ce l'ha presa Fabrizio, 180 euro, nuovo dentro la scatola. Ehi, vabbè, pazienza, non fa niente, tanto, non si vede pure l'attende. Vabbè, ma non so se l'ho notato, ma stavo più entrando, mi ho fatto due fischi, io sto per fuori nero, sta radio, e mi ha risposto gli anni, sono venuto anche in treni, infatti tra un po', 5 minuti ancora e poi spengo tutto, non mi interessa più, claro. No, no, se non attira più, devo essere sincero. No, ma attira più. No. Ehi, io vorrei farlo. Entro ogni tanto, faccio due chiacchiere, saluto, ma ne va. Non c'è più quell'atmosfera di prima, è giusto il discorso che avevate. Mi sono solo sempre generamenti, sempre attacchi, attacchi e attacchi. Se ognuno pensasse invece a guardarsi la propria persona, tutto il resto forse andremo più d'accordo tutti, siccome non è così, e allora piano piano vuol dire andrà a morire come ha fatto prima. Tutto qua. No, io mi ero poco fa, sono uscito, sono andato a trovare un collega che voleva parlarmi di persona, perché nel cuore di non c'è. Mi ha dato un certificato medico e adesso ho cenato, sto fumando una sigaretta, adesso mi guarderò un po' di televisione e poi ciccia. A te Gianni. Giusto, grazie, non è quello che ha proprio la mano al telefono. Con Giuseppe ci ha preso la clava. Ci ha tagliato la testa, già la clava veramente. Cioè mi ha dato il certificato medico da mercoledì a domenica compreso, perché lui è di turno domenica, capito? Invece me devo fare sabato e domenica adesso. E rientro lunedì perché c'è a capogiro. Lascio di me tu. Vabbè, aggiunto tutti a casa, sono andato a prendermi le relazioni, sono andato a prendermi i documenti che mi servono per seguirmi le cose che me devo seguire, le cose sue, devo seguire le cose mie, vabbè, non c'è problema. Solo che a me mi date uno stipendio, capito? A me ne date ne due, comunque. Lui ritiene così, ha detto stai attento a quello che stai facendo, perché se ti mandano il medico fiscale, tu non sei in grado di stare a casa, ti gioca a vicende, poi fai quello che ti piace, sei grande vaccinato. Ha detto che lui non ha voglia, che sempre a capogiro, sempre a mal di testa, ti bidi a noi, come ti voglio io, e andate a trovare. Comunque, problemi suoi sono. Sono andato perché al telefono mi piace a me parlare con le persone. Io voglio sempre parlare in faccia. E quindi sono andato, ho fatto due chiacchiere. Non me ne sono rientrato. Va bene. Ok, Lugariello, lavorando stai tutto a posto, sì? Sì, sì, sì. Siamo già arrivati quasi a 3 mesi, là. Poi domani non lavoro perché sono Nicola. Neanche io lavoro domani. Domani non lavoro neanche io. Poi ci lavora, sono Nicola e San Gavino, tutti e due. Non so se sei Nicola, io so sapere che sei voluto donna. Oh boh. Vabbè, ci pagano la giornata, ma già ti dà una cazzata. Festività, boh. Una truffa, questo stipendio è una truffa vera e propria. La cosa mi gira le balle che hanno rimesso lì, cazzo, per carità di Dio. Ti paghi il coso, il mutuo, quando sei contento di non pagarti più, il mutuo di Bonifici, che praticamente è come se stessi pagando un affitto a, a signor Monti. Poco sì. Allora fatti va due conti al commercialista, non l'ha fatto ragioniere, mi gioca sul tatto. Ho da pagare ogni 6 mesi circa 600 euro dici. Roba la matti cazzo, c'è da spararsi, c'è. No, c'è da non andare più a lavorare, tanto se lavorano per loro, cosa lavori a fare? Tu travagli, non va mai di una busta a caracchi di bagagli. Immaginati, a giugno con la quattordicesima, metà quattordicesima se ne va a preparare dici. E poi si tendi ogni anno la quattordicesima e la tredicesima se ne va via per il mutuo. Cazzo di aria, vai travaglia a due. Va bene. Mi sono fatto un affare con il tuo nuovo presidente del consiglio. Cazzo non mi paga la mobiliata in culo. Mi sembra che ci stia qua. Quando bisogna di pensare alla bagnata e basta. Non è che pensano altro. Adesso ci metteranno anche la tasta su internet, intanto sanno di fare i soldi da lì perché cominceranno, quindi ci metteranno la tasta blu su Instagram. Ma già non sono quelle persone che fanno lusso, speriamo non mi mettano la tassa sulle radio, cazzo, se no mi tocca pagarmi un bello. E sulle macchine, hanno messo sulle macchine di lusso, di grossa cilindrata, hanno messo... Adesso mi pare anche i conti catastali ti fanno. L'ho sentito, sì, l'ho sentito. E che in quei giorni non stavo seguendo la RAI, stavo seguendo quello nuovo TG24, perché la RAI non si voleva, adesso l'ho rimemorizzato tutto. Fortunatamente si vede di nuovo tutto, ma anche una vagogna. Non si sa più dove andiamo a finire. Vabbè, pazienza. Cazzo, Luca, già 3 mesi ci sei perché lavoro. Luca. Anticipato la chiusura della stazione, Luca, eh. Sì, occhio di gatto. Il grotte, l'hai sentito il grotte? Secondo me è caduto, cazzo. No, ciao a tutti, scusate come sono entrato. Ciao Claudio, ciao. Ciao Gianni e ciao Luca Rietti. No, no, mi ha chiamato, che gli si è bloccata la macchina e l'ho dovuto fare trainare, non ho capito bene, e aveva il telefono scarico. Questa è la versione ufficiale, ma ci crediamo, dai, facciamo buoni. E poi, niente, l'ho richiamato perché dovevamo fare una prova con la radio, e ho ti chiamo, ho toccato 3-4 volte e non risponde, non riesco a comunicare. Volevo provare perché mi ho dimenticato che c'è il disco nero sul tetto e fa anche in trasmissione, faccio 44, 430 e 1200. No, puoi usare quello, non c'è problema. Basta che mi dai la frequenza, lo puoi provare anche con me. Non c'è nessun problema. Capito? Va bene, beh, la versione è quella, quindi ufficialmente bisogna crederla, visto che non è la prima volta che si blocca con la macchina. Quindi potrebbe essere la versione ufficiale. Avanti Gianni. Cosa c'è? Io sono andato a pescare con lui, ma come se mi arrivasse a buttare di lui. Ma è passato Fabrizio, ci doveva ritirare una radio. E abbiamo detto appunto che stavamo uscendo, si faceva vedere lì da sotto casa di Antonello, da Andrea, ci prendevamo una cosa. Ha detto vi sto raggiungendo, e invece non si è visto più. E quindi stacino Fabrizio lì, si è bloccata la macchina, ci credo perché non è la prima volta che si blocca con la macchina, non l'abbiamo portata da Gabbapiri. Poi avresto gli anni anche con la macchina. Cioè, mio figlio, ieri stavamo bisticciando in macchina perché, non mi ricordo perché, no, che Antonio, no, cacchio, e lui diceva, no, è lo zingaro, no, si chiama cacchio, io dico, no, si chiama Antonio. Antonio, stavo bisticciando con me, no, non è che si chiama Antonio, si chiama Tringaro. Ecco, da quando li ho conosciuti gli ho detto che si chiamava così, e loro sono convinti che si chiama così, bisticciano con me i miei figli perché disegnano loro che si chiama Antonio, perché loro Antonio hanno un amico, no? E si chiama Tringaro, avanza Tringaro. E poi bambini, questo è farglielo capire. Se lo porti in un campo, no Maria, aspetta, abbasso qua. Se lo porti in un campo, ma devo vedere se ne abbassa la gana, lo capiscono che cos'è lo zingaro. Boh, dimmi come sto uscendo di radio, perché oggi ho toccato il Mickey Game inavvertitamente, non so se ho fatto, se sta andando bene. Benissimo, alla grande, te l'avrei detto, non c'è problema. Ma già va bene Fabio, ciao. Ciao, vuol dire che ho che ho ripreso la posizione giusta, dai. Però io, se mi dai una frequenza dove possiamo andare, in PMP o nel caso PRR, nel caso si chiamano, così la proviamo un attimino. Ma quello dove io a volte mi sposto con Antonio è 433 e 600. Mi pare che sia il canale blu, non mi ricordo che canale. Io non ce l'ho canalizzato, ce l'ho a sintonia continua, dovrebbe essere 433 e 600, ma mi pare che ci sia già lì memorizzata, se non mi ricordo. Tu la metto un attimo. Capo Siamo spiegato, Nico. Appena furato via via, l'avevo trovato e l'avevo lavorato. Per me cazzo è qualcuno che ti ha fatto dispetto. Non è qualcuno che frequenta lì, sta le abitudini. E cappa. A fare 2 più 2 fa 4, l'orario chi c'era? Il momento che lui, questa volta recentemente è arrivato lì al circolo, no? E dopo un'ora è uscito fuori che non c'era più la moto. Ha detto cazzo, cosa strana, eh. Invece era con questa macchina nera e questo tipo qua, ho capito. Gianni. Sì. Sì. Adesso. Cosa? Hai trovato Giuseppe adesso. A Santa Maria di Pisa. Ma non ci fa di lì, a fare un giro. A cercare la moto del fratello è andato. Ah, va bene, allora. Comunque se vuole il baracchino passa qua. Il nostro lato quel baracchino famoso. Giuseppe. Alessio ha detto, se vuoi quel baracchino famoso, di passare che te lo dà. Ma quando? Adesso? Che adesso? Scappa, Vedi che sto salendo, fra 10 minuti sono a casa sua. Fra 10 minuti a casa tua, Ale. Scappa, Claudio. Ciao, va bene. Ok. E K. Ciao Alessio, buonasera, E LinkedIn. Altro cliente che c'ha un coso, un galaxy tutto c'ha. Mi regalo, non lo so io. Mi regalando tu. Esatto, lo sa anche lui. Ma per mattina glielo stai regalando? Ah? Mattina glielo stai regalando. Ma fai capodanno. Ma così è. E chi lo stai regalando il tuo baracchino? Capodanno. Chiami lui da mi regali. Ce lo farò voi. Le pisce. Senza spine però, eh. Anche senza spine. Un manico di un occhio. Altro le pisce. Ce l'ho? Nulla è successo. Un microfono che è un bel vecchio. C'è un pulsante qua. Cosa c'è? Aspetta un secondo. C'è nulla, no? Non lo toccare che quella è l'autodistruzione, eh. È disgraziato, cosa so io cosa succede? Aspetta, non possiamo neanche ascoltare, figurati tu. Ma stai parlando, di quello che stai parlando? Microfono che mi ha rubato a me, c'è un pulsantino, non so cosa diavolo c'è dietro, se c'è un allarme, cosa diavolo c'è? Pulsantino rosso. Quello è che microfono hai, ancora di che radio è? Microfono amplificato, di serie. Che c'è in quello tazzino c'è dietro l'adattatore di impedenza? A quanto ce l'hai? Senti un po', aspetta. C'è qualcosa che di strano? Non ha cambiato niente, ma di solito nel DCI sono... c'è l'adattatore di impedenza, capito? Ok, allora c'è, va bene, ok, vabbè, niente di strano. Allora Giuseppe, ciao Giuseppe, ascolti. E un giro, faccio un giro per la moto del fratello. Claudio, ci sei? Ehi, già ci sono, già ci sono. Scendi giù verso la scala di ciocca. Però giù a Santa Maria di Pisa, perché c'erano degli amici, avessi hanno visto questa moto, vedere. Mi ha detto, mi fanno sapere qualcosa. Chiedono informazioni, adesso vediamo un po', hai capito? Sto dialogando a tirare in camotto, non ho capito. E se qualcuno era a piedi e l'ha presa la di nuovo. Dov'è che l'avevi trovata la prima volta? Ti dico. Ma era là a Bornanaro. Non so, non lo so qua. Ciò che dice hanno visto questa macchina nera con quattro tipi dentro e questo tipo che lo stava spingendo per metterla in moto, capito? L'hanno seguiti fino a un certo punto e poi non ce l'hanno fatta più a prenderlo, capito? Perché è salito nelle vie e contro seguito mio nipote con un'altra persona e dunque poi è entrato in questa via che non c'è riuscito, con la macchina non è entrata, hai capito? Ma praticamente cosa è successo? Ho lasciato lì tutta la notte tuo fratello? E fino alle 3, capito? Ma questo gliel'hanno preso ieri notte, ieri notte che l'ha lasciata lì perché non ho accompagnato e dunque dice io ti accompagno io a casa, lascio la moto qua e mi si trova per la sorpresa. Cioè, secondo me questa moto non la può mettere dentro ogni volta, la mette dentro il circolo e la lascia stare lì, no? E vabbè, ma lui con questa moto, sai, andava a aprire il circolo, tutto quanto, faceva per le commissioni, per notare sempre, mettila, toglila, capito, un casino. Speriamo che la trovi di nuovo, bisogna zigliare prendi già. È bello che non è l'ultimo modello, è già 6 anni, è la sacca lo stesso. Secondo me la prendi. Io non so, ma come cavolo fanno a metterla in moto? Non è a... La mia c'è le cose praticamente, il lettore della chiave, se non dentro la chiave sua non pone moto, c'è tutta una serie di bloccaggi, di cose. Infatti mi hanno detto non rimettere manco il lucchetto, ecco, tanto non c'è bisogno, non ce la fanno a metterla in moto. Tanto con quei lucchetti bloccadisco hanno fatto vedere che si riescono lo stesso a rubarle. Si cava nella ruta e si innanda, nei bisogni della moto e si innanda. A mio amico a Tempio è andato all'ospedale a fare una visita e ha legato la moto al palo, ma bene, ben legata con la catena e un palo di quelli della segnaletica, hanno sollevato la moto in alto, hanno fatto scavalcare a catena e ci stanno buttando la moto. Allucinante, cazzo di arte, non ci compresi, non scuotermi. Uno scooter 50 però se no le veniva un po' in salita. Adesso che erano in 2 e 3, hanno sollevato, capito? Un palo poi, uno di questi picchettimi, pari quelli a cineretica bassi, hanno sollevato, e si stanno buttando la moto con la catena attaccata. E tu sei tutto sicuro che una volta che attacchi non è vero, ma dopo si fusero con la cisuglia, ci sono quelli che c'erano quelle cisuglie grandi che tagliano le cartelle e se la buccia nello mattese. Il noto cosa c'è, la sono fatto via, non l'ha fatto con me. Ehi, se si vogliono rubarti, se la rubata. Ma tu ce l'hai più la volta a te? Il noto cosa c'è, la ce l'ha fatto subito, non l'ha fatto con me. C'è il posto di configurarti tu. E poi lo stesso. Anche al figlio di Mario Massi mi avevano fregata lì. E poi l'hai trovata anche lui. È tutta smontata, senza luci, manca un po' di roba. Vabbè, comunque l'hai trovata almeno. Meno quello, diciamo. Ma sì, quello sì. Ha dovuto metterci un po' di soldi sopra, che aveva attaccato un po' di roba. Vabbè. E continueremo ad andare sempre più di più con i ladri, perché con la mancanza di lavoro molta gente avrà rubato. E fanno bene, lui è arrivato, è veloce, me. Aumenterà la delinquenza al 100%. Di mano mi pare la trovata di tutti. Le mele, agli alberi, così così, va a furare moto, macchie, di tutto. Figlio di Mario l'ha trovata tutta a pezzi. Anche il carburatore, luci, un sacco di roba l'ho staccata. L'ha trovata via Moscot. Via Moscot. Praticamente quella via che c'è sotto la provincia, quella che passa che va via di Umberto. Ah, quella che porta giù al fosso la noce. Allora, praticamente tu sta l'ultimo pezzo dove sono i posti ciclisti, poi invece di andare a destra, poi a sinistra, quella è via Moresco. Non sapevo che era quella. Comunque, perché a Luca non avevano rubato a vero Umberto lo stesso? Prima a lavorare nella giacca della moto. Vediamo un secondo. Cazzo, anche quelle targate, prima le targate non le prendeva, adesso rubano anche quelle targate. Eccomi qua, chi c'è rimasto? Scusate, ero facendo cose. C'è rimasto qua, non mi riuscite andati?